ti m'accompagni, se ti m'accompagni, se ti m'accompagni alla stagione, a fare gli scappitelli, a fare gli scappitelli, a fare gli scappitelli all'Iguadrenai. Ma passa, sta modella con la bilancia di Bob.